facendo una piccola premessa generale, possiamo dire che siamo di fronte a un attacco allo stato sociale del comune di Bologna, un attacco allo stato sociale un po' generalizzato su tutti i settori. Diciamo, noi lo stiamo vivendo nel comune di Bologna con tagli al personale, con tagli ai servizi e con chiaramente non incrementi salariali. Poi abbiamo inoltre una problematica legata alla sorveglianza sanitaria, quindi diciamo c'è un bel po' di roba in campo, ecco. Il 17 era lo sciopero del resto del comune, il 30 è lo sciopero solo della polizia locale, perché come polizia locale avevamo cominciato il percorso molto prima, perché diciamo che il nostro settore era in trattativa con l'amministrazione comunale prima degli altri settori, perciò questo è il nostro terzo sciopero del settore, quindi siamo, diciamo, i due percorsi tra il resto del comune e tra la polizia locale stanno correndo paralleli per convergere contro l'amministrazione comunale, perché sta tagliando tutti i servizi. E quindi appunto il 30 voi avete proclamato uno sciopero. Il terzo sciopero come polizia locale, esatto. Che cade in una giornata, insomma, particolare, perché passerà il Tour de France. Ecco, il ragionamento generale è questo, che noi come polizia locale abbiamo già fatto due scioperi, questo è il terzo, quindi cerchiamo di farli in giornate in cui abbia un certo risalto. Questo sta creando ovviamente dei problemi a livello comunale, giustamente. Mi chiedo se il comune fosse disponibile ad accogliere parte delle vostre richieste, si potrebbe ripensare la giornata di sciopero, o andreste... Certamente, non è legata... Cioè, questa giornata di sciopero è legata anche a un rapporto col comune, perché il comune ormai non sta incontrando le organizzazioni sindacali, in particolare quelle di base, le ha relegate in un secondo ruolo, pur essendo noi come SGB la seconda organizzazione del comune, quindi diciamo che le organizzazioni extraconfederali rappresentano oltre un 40% dei dipendenti del comune, l'amministrazione comunale non ci sta incontrando, quindi abbiamo anche una difficoltà di rapporto, non solo di rivendicazione, proprio anche di rapporti sindacali, quindi noi abbiamo tutta una piattaforma legata ai diritti, legata al salario, legata alla salute, diciamo le 3S, per cui vorremmo che l'amministrazione comunale fosse un po' meno sorda alle nostre istanze. Quindi non ci sono stati dei tavoli di confronto finora? No, ci sono stati tavoli di confronto con come polizia locale, siamo stati incontrati sul bilancio in generale, però le problematiche che le ho descritto relativamente alle assunzioni, ai diritti, al salario e alla salute sono tutte sul campo, non si sta prospettando nessuna soluzione, quindi si sta dando uno scontro sempre più forte. Volevo aggiungere, sì, praticamente, te lo ripeto, siamo partiti prima noi come polizia locale, poi man mano tutti i settori hanno visto l'esigenza di arrivare alla mobilitazione, ma visto che noi avevamo cominciato già un percorso che cercava di fare risaltare gli scioperi, le iniziative, nelle giornate in cui poteva creare problemi all'amministrazione, appunto come partite o Tour de France, un'altra tappa importante, quindi non possiamo chiedere ai lavoratori di scioperare due paio di settimane, due volte, quindi per quello la polizia locale il 17 non ha scioperato, solo per motivi diciamo tecnici, ma è la stessa organizzazione che sta organizzando le mobilitazioni, noi con Snater e poi anche con ADI, che è un sindacato delle insegnanti che ha partecipato allo sciopero del 17.